è il greco che porta in sé tutta l'esperienza straordinaria, grandiosa, insieme tragica della vicenda greca. Noi della Grecia sostanzialmente sappiamo, la Grecia classica, le sue tragedie, il suo epos, i poeti, ma il resto non lo sappiamo. Non sappiamo la storia del mondo bizantino, sappiamo un po' dell'ellenismo, l'ellenismos, quello che la Grecia ha portato nel mondo, soprattutto leggendarie città come Alessandria. Ma invece Iaronios è il greco che ha attraversato tutti questi tempi e altri, cioè l'impero bizantino, la dominazione turca, 400 anni durissima, fino a venire a noi, fino al momento della liberazione, della grande lotta di risorgimento, per poi arrivare a tutta la serie di tragedie del secolo scorso. Il popolo greco ha attraversato tragedie davvero molto pesanti, di cui pochi conoscono la storia, pochissimi. E ancora una volta la piccola Grecia è stata, piccola ma gloriosa, è stata presa per testare la ferocia di quattro dementi alcolizzati che stanno al Fondo Monetario Internazionale, la Troica. Adesso una ce la becchiamo in Europa. Lei ha detto che era sbagliata l'infamia commessa contro la Grecia, ma è andato bene da dimettersi. Questo è questo mondo. La Grecia è un paradigma da questo punto di vista, ma anche straordinaria, grandiosa la sua reazione. Ho voluto questa volta con Dimitris e con Roberta portare il poema di Yannis Rizzo su musiche, canzoni greche, perché il Circolo Gianni Bosio, una delle storie più gloriose della nostra cultura alta, che ha sviluppato straordinario sapere in questo campo fondamentale. L'Italia è un paese di una ricchezza inimmaginabile nel campo delle tradizioni popolari. Ma pare che a nessuno gliene frega niente, ma il Circolo Gianni Bosio ancora combatte, malgrado sia stato espulso dalla sua sede, come se il problema dell'Italia fosse il circolo Gianni Bosio. Davvero una vergogna senza esempio. Ora noi reciteremo questo poema e ascolterete nelle musiche qualcosa di rebetico, qualcosa di autori che però si ispirano anche. Io amo moltissimo la cultura neoellenica, i miei bisnonni erano di Salonicco. Ma amo questa cultura perché il suo travaglio ha portato anche degli eventi straordinari, fra cui la lingua neoellenica, di Motichì, che è una lingua che porta in sé tutto il grande travaglio, la gloria antica di Atene, ma anche la caduta di Costantinopoli, i lamenti per la caduta di Costantinopoli sono alcuni dei poemi più struggenti, commoventi che abbia mai letto. E poi, fino a venire alla storia moderna, questa lingua, la lingua stessa, è stata occasione di lotta di classe nelle piazze, perché il potere conservatore reazionario considerava che chi faceva uso di questa lingua per gli usi alti, letterari, poetici, fosse già un comunista di per se stesso. Perché l'operazione messa in atto con la riconquista dell'indipendenza fu quella di costruire una lingua che fosse all'altezza della grande tradizione, e nacque una lingua molto interessante, la Katharelusa, la purificata, che veniva usata fino all'ultima dittatura, tribunali, atti ufficiali, insomma, si usava questa lingua, la Katharelusa. Così la Grecia viveva una triglossia, quella antica che si studiava nelle scuole, perché anche i giovani greci la studiavano, la Katharelusa, la lingua ufficiale, la lingua nobile purificata, e il Dimotichì, la lingua del popolo. Il Dimotichì è una lingua prodigiosa. Imparate questa lingua. È un peccato non sapere il Dimotichì, perché porta in sé una lingua che ha impressi travagli, turchismi, veneti, È una lingua meravigliosa, una lingua che ha recuperato una verità, a mio parere, una verità intima della Grecia. La filologia che ha studiato la Grecia, soprattutto certi filologi tedeschi, in particolare Otto Müller, volevano che la Grecia fosse il risultato dell'arrivo dei Dori, gli Ariani. Non si capisce perché allora la Grecia non sia nata nello Schwarzwald. Invece la Grecia è una cultura scura, quel crinale tra Oriente e Occidente, ma gli Apollini hanno scotomizzato l'elemento dionisiaco, che è stato risarcito da un geniale opus magnum di uno studioso della grecità, diciamo classica e oltre, Martin Brunau, che ha scritto un'opera per me, un capolavoro assoluto, Black Athena, Atene. Perché parte significativa della cultura greca viene dall'Africa e dall'Asia. Non era affatto una cultura bianca, così come le statue. Le statue erano coloratissime, i templi erano policromi, e così anche le musiche, le danze. Allora, curiosamente, il travaglio greco, tutto quello che ha sofferto, ha riportato attraverso forme linguistiche anche questa parte, in particolare il repetico, che era una lingua proibita quando ci fu la dittatura di Metaxas, dittatura fascista. Proibivano di suonare i musoni. Poi Dimitri si racconterà una cosa. E allora, così, noi abbiamo voluto insieme celebrare gli anni Strizos, a mio parere, veramente un'opinione personalissima, per respiro poetico, per qualità etica dell'uomo, per il suo impegno. Gli anni Strizos era un militante comunista, si è fatto 15 tra campi di concentramento dei fascisti greci, nazisti e prigioni, ha subito torture che non è possibile neanche raccontare. Io mi pento di aver saputo cosa ha passato la cultura greca progressista. È veramente terribile. Eppure gli anni Strizos ha un respiro poetico senza odio. Un uomo di una qualità che io credo sia estinta. Vi racconto solo un episodio, ci tengo troppo, perché questo spettacolo nasce dall'essermi, diciamo, preso il compito di fare conoscere Strizos al maggior numero di persone possibile. Gli anni Strizos fu liberato a un certo punto anche grazie a una mobilitazione internazionale promossa da Aragon, che dopo aver letto una traduzione del suo Epitaphios, un mirologio in cui una madre piange la morte del figlio, un figlio assassinato dalla polizia di Metaxas nel 1936. E allora fu liberato, tornò alla sua vita, fu anche celebrato molto. E un giorno era a casa sua, mi ha raccontato questa cosa Nicola Crocetti, il suo traduttore italiano, il suo amico intimo. Suona il campanello alla porta e Strizos va a rispondere e si trova davanti il suo torturatore più sadico, più efferato. Quest'uomo, appena vede Strizos, cade sulle ginocchia e dice: solo adesso ho capito il male che ti ho fatto. Forse aveva detto qualche suo verso. E gli dice poi: io ti scongiuro, lascia che passi il resto della mia vita per essere perdonato per quello che ti ho fatto. Mi ha raccontato che c'è Strizos lo guardò e disse: ma cosa fai lì? Dai, alzati, vieni a pranzo. E da quel momento quello divenne uno degli amici di Strizos della schiera più ristretta. Lo si riconosceva solo perché era molto servizievole con lui, senza che nessuno glielo chiedesse. Ecco, questo era Jan Strizos, che ha scritto un respiro poetico per me immenso e vastissimo. E noi vi leggiamo Romeo sì, ma prima di questo, della carcerazione, del tempo terribile, delle torture, della carcerazione spaventosa dei lager dei fascisti, per farvi capire qual è la pietas di Rizzo soprattutto, uomini, animali, cose, piante, vorrei leggervi da Macronisos, una raccolta di poesie che fanno riferimento a una terribile epoca di sofferenza, e questa poesia è dedicata ad un cane, Dick. La pietra incrociata dal vento, il vento, la pietra, non si sente niente, solo il batticuore della pietra, e la pietra del cuore che si lavora con la rabbia e col dolore, pesantemente, piano e fermamente. Pietra in abbondanza, cuore in abbondanza, per costruire le fabbriche di domani, le case popolari, gli arossi stati e il grande monumento degli eroi della rivoluzione. E non dimentichiamo il monumento a Dick. Sì, sì, il nostro cane Dick della squadra di Mudru che le guardie hanno ammazzato perché amava molto i detenuti. Un monumento per Dick, un cane di pietra con larghe cosce, con due gocce di devozione negli occhi, col labbro rialzato mostrando il dente sinistro, pronto ad azzannare il malleolo della notte e l'ombra della guardia o la lungilinea pausa della lanterna che frapponeva una lastra di silenzio tra le parole e le nostre mani. Non dimentichiamo, compagni, Dick, il nostro amico Dick, che appaiava le notti sulla porta del cortile di fronte al mare e si addormentava sul far del giorno sui piedi nudi della libertà con la mosca d'oro della stella mattutina sopra l'orecchio ritto. Ora Dick dorme a Lino mostrando sempre il suo dente sinistro. Può darsi che dopo domani lo sentiamo ancora bagliare contento in una manifestazione gironzolando sotto le nostre bandiere, penzolando sotto il suo dente sinistro un piccolo cartello: abbasso i tiranni. Era buono Dick. Non dimentichiamo, compagni, Dick, il nostro amico Dick che è morto sulle nostre linee, il nostro amico Dick che hanno ammazzato perché amava molto i nostri compagni. Thank you. questi alberi non si accordano con un cielo nuovo. Queste pietre non si accordano sotto passi stranieri. Questi volti non si accordano se non al sole. Questi cuori non si accordano se non con il buon diritto. Questo paesaggio duro è come il silenzio. Stringe nelle spalle le sue pietre infuocate. Stringe nella luce i suoi ulivi orfani e le sue vigne. Stringe i denti. Non c'è acqua. Solo luce. La strada si perde nella luce e l'ombra del muro di pietra e ferro. Calcinati nel sole si sono fatti marmo gli alberi, i fiumi e le voci. Le radici cozzano nel marmo, i legacci impolverati. Il muro e la roccia, anzi, non c'è acqua. Tutti hanno sete, sono anni. Tutti masticano un boccone di cielo sopra la loro amarezza. I loro occhi sono arrossati dall'insonnia. Una profonda fenditura è incuneata in mezzo alle loro sopracciglia come un cipresso tra due montagne all'ora dello zenith. La loro mano è incollata al fucile. Il fucile è l'appendice della loro mano. La loro mano è l'appendice della loro anima. E hanno la rabbia sopra le loro labbra e c'è una pena profondissima nei loro occhi, come una stella in un cavo dove si è posato del sale. Quando serrano la mano, il sole è certo per il mondo. Quando sorridono, una rondinella esce dalle loro selvagge barbe. Quando dormono, 12 stelle cadono dalle loro tasche vuote. Quando vengono uccisi, la vita si incammina per la salita con bandiere e tamburi. Sono anni che tutti sono affamati, assetati, che vengono uccisi, assediati da terra e dal mare. L'arsura ha divorato i loro campi, la salsedine ha pervaso le loro case, il vento ha battuto le loro porte e i rari lì là della piazza. Dai fori dei tabarri entra ed esce la morte. Le loro lingue sono secche come i frutti del cipresso. Sono morti gli orcani, ammantati nella loro ombra. La pioggia bussa sulle loro ossa. Pietrificati nelle garritte fumano lo sterco e la notte, frustando il mare infuriato dove è affondato l'albero spezzato della luna. Il pane è esaurito. Anche di ah, le garrite i loro occhi brillano, una grande bandiera, un grande falò rosso sangue, e ad ogni alba migliaia di colombe partono dalle loro mani per le quattro porte dell'orizzonte. Thank you. ostinato sul dorso della pietra. È una goccia d'acqua che scava un tempo antico, il silenzio fino al midollo. È una campana appesa al vecchio platano che chiama gli anni. Scintille in dormiveglia, sabbia incandescente, e i tetti contemplano la lungine perlacea di luglio, penuria gialla come i ciuffi del gran turco affumicato dalla pena del tramonto. La Madonna si corica fra i morti con la sua ampia gonna macchiata dalle uve. Nella strada piange un bimbo, gli risponde dalla pianura la pecora che ha perso i suoi figli. Ombra sulla fontana, la botte ghiacciata, la figlia del maniscalco con i piedi bagnati, sopra il tavolo il pane e un'oliva. Tra i pergolati della vita la lanterna del vespro, e lì, in alto, girando il suo spiedo, la galassia simmetria delle fragranze di grasso alla brace, di aglio, di pepe. Ah, di quanti gomitoli di stelle ci sarà ancora bisogno perché gli aghi di pino ricamino nel recinto di pietra infuocato dell'estate. Anche questo passerà. Quanto ancora la madre strizzerà il suo cuore sopra i suoi 7 valorosi scannati, finché la luce non troverà la strada nella salita della sua anima. Questo osso che fuoriesce dalla terra misura metro per metro la terra stessa e le corde del liuto. E nel crepuscolo il liuto con il violino fino all'alba. Pena dopo pena lo dicono agli allori, ai pini, e sulle navi vibrano le cime come corde. Il marinaio beve mare amaro nella tazza di Odisseo. Ah, chi fermerà questi assalti? E quale spada mozzerà il coraggio? E quale chiave serrerà il cuore che con le sue due ante spalancate guarda gli occhi siderali del Dio? Oh. Qui in questo luogo il sole prende su di sé metà del peso della pietra che portiamo sempre sulla nostra spalla. Si spezzano le tegole senza un A sotto il ginocchio del nereccio. Gli uomini camminano davanti alla loro ombra come i delfini davanti ai caicchi di Schiatos. Dopo la loro ombra diventa un'aquila che tinge le sue ali allo zenith del sole e, un po' dopo, si adagia sulla loro testa e contempla le stelle quando loro si coricano sulla tela contadina dove sta a seccare l'uva sultanina. Qui in questo luogo ogni porta ha scolpito un nome da qualcosa come 3.000 anni. Ogni pietra ha dipinto sopra un santo con gli occhi feroci e i capelli di stoppa. Ogni uomo ha inciso sul braccio sinistro, punto dopo punto, una gorgonia rossa. Ogni ragazza ha una manciata di luce salata sotto la sua gonna. I bambini hanno 5 o 6 catenine con la croce di amarezza sopra il cuore, come l'impronta del passo dei gabbiani sulla sabbia del pomeriggio. Non c'è bisogno di ricordare, lo sappiamo. Tutti i sentieri portano a Psilalonia, il vento lassù è potente. Quando si sfilaccia in lontananza lo fresco minoico del tramonto e si spegne a rogo nel pagliaio dell'ansacca, salgono fino a qui le vecchie, negli scalini scavati nella roccia. Si siedono sulla grande pietra, scrutando con gli occhi il mare. Si siedono e contano le stelle come contano l'argenteria dei loro antenati. E lentamente scendono per nutrire i loro nipoti con la polvere da sparo di Solungi. Sì. In verità il Comenus ha 2 braccia, così addorate in mezzo al suo cappio, ma il suo sopracciglio trema come la roccia che cerca di staccarsi dal suo occhio amareggiato. Dal profondo sale quest'onda che non conosce scuse, dall'alto rotola questo vento con vena di resina e polmone di salvia. Ah, soffierà una volta e una folata sradicherà gli aracci del ricordo. Ah, soffierà 2 volte per far scintillare la pietra di ferro come l'acciarino. Ah, soffierà 3 volte e farà impazzire le foreste di abeti agli agura. Darà un colpo col suo pugno e spezzerà la tirannia nel vento. E tirerà per il collare l'orso della notte per ballare per noi un zanico in mezzo ai bastioni, e la luna come un def batterà fin quando la ragazzaglia e le mamme di Suri non riempiranno i balconi isolani. Il messaggero arriva da Mechali la Hadvia ogni mattina, e il suo viso brilla il sole e sudato. Sotto la sua scella tiene stretta la capacità, come l'operaio tiene il suo basco dentro la chiesa. È arrivata l'ora, dice. Siamo pronti. Ogni ora è la nostra ora. eterno. Parà gli smenno, parà Cristo. Si sono avviati all'alba, dritti con la fierezza dell'uomo affamato. I loro occhi immobili si è cagliata una stella, sulla loro spalla portavano l'estate fredda. Da qua è passato l'esercito con le insegne incarnate, con l'ostinazione fra i loro denti come il maglio la mandorla, con la sabbia della luna nei loro occhi. E con la polvere di carbone della notte incollata nelle radici e nelle loro orecchie. Albero dopo albero, pietra dopo pietra, hanno attraversato il mondo. Con le spine per cuscino hanno attraversato il sonno. Hanno portato la vita come fiume nelle loro due braccia aride. Ad ogni passo guadagnavano un metro di cielo per donare. Sulle garritte si pietrificavano come alberi carbonizzati e quando ballavano in piazza, dentro le loro case, tremavano i soffitti e tintinnavano i bicchieri sulle mensole. Ah, che canzone ha scosso le cime delle montagne! In mezzo alle loro ginocchia tenevano la scodella della luna e cenavano. E rompevano. Ah! Dentro le foglie del loro cuore, come se schiacciassero un pidocchio in mezzo alle loro dure unghie rosse. Chi ti porterà adesso la pernotta calda, nel mezzo della notte per nutrire i sogni? Chi si arresterà all'ombra dell'olivo, in compagnia della cicala, per non trasmettere il suo canto? Adesso che la calce del grigio tinge il recinto tutto intorno all'orizzonte, cancellando i loro grandi nomi maschili, all'alba, quando questa terra si fa fragrante, la terra che era loro e nostra, sangue loro, come profumava il terreno. E adesso che hanno serrato la loro porta e le nostre vigne, come si è assottigliata la luce sui tetti e sugli alberi, chi lo dirà che metà si trova sottoterra? E l'altra metà dietro le spalle. Tranquillo, a momenti suoneranno le campane. Questa terra è loro ed è nostra. Sottoterra, tra le loro braccia incrociate, tengono la corda della campana. Aspettano l'ora, non dormono. Aspettano per suonare la nostra resurrezione. Questa terra è loro ed è nostra. Nessuno ce la può togliere. Thank you. sotto i mulini nelle prime ore del pomeriggio, setacciando la luce cinerea con le loro grosse dita. Si sono tolti le loro cartucciere e valutavano quanta fatica ha riempito il sentiero della notte, quanta amarezza nel groviglio della malva selvatica, quanto coraggio negli occhi del ragazzo scalzo che portava la bandiera. Era rimasta tardata di campo l'ultima rondine, pesandosi nell'aria come una striscia nera nella manica dell'autunno. Non era rimasto null'altro, solo le loro case bruciate, fumando. Gli altri ci hanno lasciati da tempo sotto le pietre, con la loro camicia lacerata e il loro giuramento vergato sulla porta battuta. Non ha pianto nessuno, non c'era tempo. Solo che il silenzio immobile si ingigantiva e la luce era messa a posto giù nel litorale come la casa ben tenuta dell'uccisa. Cosa accadrà loro quando verrà la pioggia in mezzo alla terra, cosparsa da foglie di platano marcite? Cosa accadrà loro quando tutto si asciugherà nella trama lanosa delle nuvole, come un tavolo spezzato nel letto contadino? Quando si poserà sul cammino della prima notte la cicogna imbalsamata dalla neve? Spargono sale le vecchie madri sul fuoco, cospargono di terra i loro capelli, hanno sradicato le viti di Monenvassià perché l'acino nero non addolcisca la bocca dei nemici, hanno messo in un sacchetto dei loro nonni le ossa insieme alle posate. E girovagano fuori dalla loro patria cercando un luogo per mettere radici nella notte. Sarà difficile trovare una lingua simile al ciliegio, meno dura, meno pietrosa. Quelle mani che sono rimaste nei campi, su in montagna o giù lungo il mare, non dimenticano. Sarà difficile dimenticare le loro mani. Sarà difficile per quelle mani che si sono incallite sul grilletto interrogare una margherita, dire grazie sul loro ginocchio, su un libro o nel busto della luce stellata. Serve tempo e dobbiamo parlare. Fin quando non trovino il pane e il loro diritto. Due reni inchiodati nella sabbia al sorgere dell'aurora con il fortunale. Dov'è la barca? Un aratro conficcato nel terreno e il vento soffia, la terra bruciata, dov'è l'altrove? Cenere all'olivo, la vite e la casa, la notte rammendata con le stelle della calza contadina, dal loro secco e l'origano dell'armadito lungo, il fuoco non l'ha toccato, il pentolone fumante nel cammino, solo l'acqua è buona nella casa sparvata. Non hanno fatto in tempo a mangiare. Sopra l'alta bruciata le vene del bosco, scorre sangue nelle vene, ed ecco il noto passo. Chi è il passo noto con chiodi sulla salita? Lo strascinio della radice dentro la pietra, qualcuno viene. La parola d'ordine, la controparola. Fratello, buonasera. La luce troverà allora i suoi alberi, troverà un giorno e l'albero troverà il suo frutto. La borraccia di colui che è stato ucciso, ancora acqua e luce. Buonasera, fratello mio, lo sai? Buonasera. Il vecchio tramonto della baracca di legno lì vende spezie e demiseres. Nessuno compra. Si sono elevati, è difficile che si abbassino. È difficile che dicano la loro storia. Dentro l'aloni dove i valorosi hanno cenato una notte rimangono i noccioli delle olive e il sangue secco della luna, il decapenta sillabo delle loro armature. Il giorno dopo i passeri hanno mangiato le briciole delle loro gavette, i bambini hanno costruito giocattoli con i fiammiferi che hanno acceso le loro sigarette e con le spine degli astri. E la pietra, dove nel primo pomeriggio si sono seduti sotto gli olivi di fronte al mare. Domani diventerà calce nella fornace. Domani biancheremo le nostre case e i cornicioni di Santa Salvatrice. E il giorno dopo ancora segneremo il seme lì dove si sono addormentati. Il germoglio del melograno farà sbocciare il primo sorriso del neonato sulla spalla del raggio di sole. E dopo finalmente ci siederemo sulla pietra per leggere tutto il loro cuore come se leggessimo per la prima volta la storia del mondo. La cipolla di Laconia davanti alle porte. più camminano, più le loro mani assomigliano alla terra. Più camminano, più i loro occhi assomigliano al cielo. La polvere da sparo ha inaridito le gengive del silenzio assoluto. Dov'è ormai l'olio per i lumi di Santa Barbara? Dov'è ormai la menta selvatica per incensare l'icona terlacea del crepuscolo? Dov'è un boccone di pane per la notte vendica, per suonarti sulla lira cretese le filastrocche stellate? Nella fortezza alta dell'isola, i tichi d'India e gli asfodei infestano come fantasmi la terra rivoltata dalle cannonate e dalle tombe. L'edificio del comando scoperchiato è rattoppato dal cielo. Non c'è più spazio per altri morti. Non c'è spazio perché la pena si fermi ad intrecciare i propri capelli. Case bruciate contemplano con occhi incavati il mare marmoreo, le pallottole conficcate nelle mura, come i coltelli tra le costole del santo che hanno legato al cipresso. Tutto il giorno i morti prendono il sole con le braccia spalancate e solo quando fa sera i soldati trascinano il ventre sulle rovine fumanti, cercano con le narici il vento che non sa di morte, cercano nelle scarpe della luna un pezzo di soprasuola, battono con il pugno la roccia, forse scorrerà lo sgorgare dell'acqua, ma dall'altro lato il muro è calmo e risentono il colpo con le molte volute che fa l'opice cadendo nel mare, e sentono ancora una volta il lamento dei feriti davanti alla porta. «Dove vuoi andare?» ti grida tuo fratello. La notte è murata tutto intorno dalle ombre delle navi straniere, le case chiuse per blocchi di cemento. Solo in alto ci sono strade aperte e loro mandano a farsi fottere le navi e si mordono la lingua per sentire che il loro dolore non è diventato osso. Sopra i nervi, i capitani morti e eretti montano la guardia della fortezza. Si sciolgono gli organi. Ehi, fratello, ma ti sei riposato? È germogliata la pallottola dentro il tuo cuore. 5 giacinti sono sbucati dalla scelta della roccia secca. Alito dopo alito, la fragranza racconta la favola. Non ti ricordi? Dente su dente la ferita racconta la vita. La camomilla, sbocciata nel sudicio dell'unghia del tuo alluce, racconta la bellezza del cosmo. Afferri la mano, è tua, impregnata dalla salsedine, è tuo il mare. Quando strappi il capello dalla testa del silenzio, sgocciola amaro il latte del vento. Comunque sei il cielo ti guarda. Venere rolla fra le sue dita la tua anima come una sigaretta. Così la fumerai la tua anima stando su di te, bagnando il tuo braccio sinistro nella stellata e incollato al tuo braccio destro il fucile dopo la fidanzata. Ricordati che il cielo non ti ha dimenticato quando sfilerai dalla tasca interna la sua vecchia lettera e le tue dita bruciate stenderanno la luna e c'erai valore e gloria. Dopo salirà il punto di vedetta della tua isola usando una stella per acciarino, tirerai un colpo in aria sopra le mura e gli alberi maestri, sopra le montagne che si chinano come tanti feriti, così solamente e solo per l'abolire i fantasmi, perché si infilino sotto la coperta della tua vita. Sparerai un altro colpo alla globa del cielo per trovare il segno etereo, come se trovassi sopra la camicia il capezzolo della donna e domani annatterà tuo figlio, come se trovassi dopo anni la maniglia del cancello della tua casa paterna. La casa. luce del sole nel cortile, le galline pecchiettano. Le conosciamo, ci conoscono. Di sotto fra i cespugli spinosi, il coludro dei Balcani abbandona la sua camicia gialla. Di sotto c'è la capanna della formica e la torre della vespa delle molte territorie. Nello stesso ulivo il guscio della cicala dell'anno scorso e la voce della cicala di quest'anno. Tra i lentischi la tua ombra ti segue alle spalle come un cane muto, molto tormentato, cane fedele. Nei meriggi si siede a fianco del tuo sonno terreno, annusando di oleandro. Le notti si acciambella sui tuoi piedi, guardando una stella e, un silenzio di pere, che crescono maturando tra le cosce dell'estate. Un sonno d'acqua che ti bellona tra le radici dei carrubi. La primavera ha tre orfani addormentati sul suo grembiule. Un'aquila mezza morta nei suoi occhi, e lì, sopra le spalle della pineta, si asciuga la chiesetta di San Giovanni Digiunatore, come la cacca bianca del passero, secca per la caduta, di una foglia larga di tigli. Questo pastore, avvolto nel suo mantello di pelle di pecore, ha in ogni pelo del suo corpo un fiume prosciugato, ha un bosco di quercia in ogni poro del suo pitta, il suo bastone gli stessi nomi del legno del remo che ha colpito per primo l'azzurro dell'Ellesponte. Non serve ricordare, nella vena del platano scorre il tuo sangue, e la scopedo dell'isola e il cappero. Il pozzo silente solleva nel pieno meriggio una voce rotonda di vetro nero e di vetro bianco, rotonda come i vecchi barili. La stessa antica voce. Ogni notte la luna capovolge i morti, cerca i loro volti con le dita ghiacciate per trovare suo figlio dalla linea della sua mandibola e dalle sopracciglia di pietra. Cerca nelle loro tasche, troverà sempre qualcosa. Qualcosa troveremo, una chiave, una lettera, un orologio fermo alle sempre. Cerchiamo di nuovo l'orologio. Le ore camminano. Quanto dopo domani si scioglieranno i loro vestiti, rimarranno nudi tra i loro bottoni militari, così come rimangono i pezzi del cielo tra le stelle estive, allora magari troveremo il loro nome e possiamo gridarlo. Amo! Allora di nuovo queste cose sono un po' troppo lontane, sono un po' troppo vicine, come quando afferri nell'oscurità una mano e dici buonasera, con la madre mia dell'immigrato quando torna alla casa paterna. E non lo riconoscono neanche i suoi, perché lui ha conosciuto la morte, e ha conosciuto la vita prima della vita e sopra la morte. E lo conosce, non si amareggia. Domani, dice. Ed è sicuro che la strada più lunga è la più breve per il cuore del Dio. E ora che la luna lo bacia sul collo con il fuoco dal manico, scuotendo la cenere della sua sigaretta, dalla ringhiera del balcone, può piangere per la sua sicurezza, può piangere per la sicurezza degli alberi, delle stelle e dei fratelli. Un locra si lo chiave smerme.

recital di e con Monio Vadia e con Roberta Carrieri alla voce e alla chitarra, Dimitris Kotsiouros al bouzouki e al oud. Con la cantante Roberta Carrieri per parlare di Romeosini Grecità che abbiamo appena ascoltato. Roberta, ben trovata. Ciao a tutti, eccoci qui a parlare della grecità e della musicalità di questo spettacolo, che in realtà è un recital. Esatto. Un recital in cui alterniamo le poesie di Ritsos, Giannis Ritsos, a canzoni greche, di cui sono tanto appassionata. E questo è il motivo per il quale Moni Ovadia mi ha coinvolto nello spettacolo, perché abbiamo questa passione comune per la musica greca, parliamo entrambi il greco, e quindi ci è venuta questa idea di unire la nostra passione alla poesia. Com'è nato il tutto? Io e Moni ci siamo incontrati spesso in camerini o backstage o anche feste, perché comunque abitiamo entrambi a Milano, e ogni volta che ci incontravamo parlavamo in greco. A me capita raramente di trovare qualcuno con cui parlare in greco, perciò ne approfitto sempre. Poi ad una festa mi ha anche sentito cantare e ha pensato poi di coinvolgermi in questo suo progetto che era da tanto che voleva fare, dove c'è anche Dimitris Kotsiouros, che è un musicista greco degli Evievan, che suona i bouzouki e l'oud. E quindi è nata questa cosa che per me è stata bellissima, perché oltre a darmi la possibilità di cantare le canzoni greche, perché io sono una cantautrice, di solito canto le mie canzoni oppure canto, faccio serate di cabaret dove faccio altri repertori, non è diciamo usuale riuscire a cantare le canzoni greche. E quindi per me è stata una bella opportunità, anche perché in questo spettacolo c'è un pupazzo, io sono anche ventriloqua, Federico, lo sai, perché sì, tu c'eri allo spettacolo. E c'è un pupazzo che si chiama Kuklamu. Kuklamu in greco vuol dire bambolina mia. In realtà è un modo affettuoso per chiamare le ragazze. Questa bambolina ha le mie sembianze, quindi ha i capelli neri con la frangetta, è vestita di verde e ha le corna, perché è anche le zampe da capra, perché è una satirella. Cioè la figura del satiro mitologicamente era quella legata appunto alla figura di Dioniso, quindi era metà capra e metà uomo, in questo caso metà bambina, che sono io, e sono una bambina di 40 anni, e metà capretta. E lei canta in questo spettacolo, è una specie di mio alter ego, io duetto con lei in un paio di canzoni, mi piace molto giocare con i registri, quindi il registro basso che è il mio. E quello alto della bambolina. Roberta, la scelta delle canzoni? L'ho fatta io. Ho scelto, se devo essere sincera, le canzoni che mi muovevano di più l'animo. E quindi ne ho scelte alcune del repertorio di Creta, l'isola Creta, di Xiluris. E poi, insomma, ho scelto in realtà le mie preferite, quelle che consideravo più poetiche, visto che appunto ci si muoveva nell'ambito della poesia, ho deciso di optare per quelle che appunto consideravo quelle più emotive. Ci racconti anche un po', avevi già cominciato, della tua attività al di là della passione per la Grecia? Io sono una cantautrice che però viene dal teatro, nel senso che facevo l'attrice per il teatro Kismet Opera di Bari, poi vabbè sono andata a vivere a Milano, ne ho fatte di cotte di crude, passando tra la musica, il teatro, le performance di vario tipo. Negli ultimi 10 anni mi sono molto concentrata sulle mie canzoni, ho fatto 3 dischi da solista che potete trovare vabbè anche su Spotify, su YouTube, insomma googolatemi così troverete queste canzoni. Ho fatto 3 dischi, di cui gli ultimi 2, uno si intitola Relazione complicata ed è un concept sulle relazioni, sull'amore complicato, traendo spunto da questo romanzo di Robin Norwood sulle dipendenze affettive, ma in maniera autoironica, ironica, sono sempre canzonette. E il terzo disco ed ultimo, ad ora, invece si intitola Canzoni su commissione e sono tutte canzoni che mi sono state commissionate, tra virgolette, cioè in realtà io ho chiesto a miei amici che consideravo molto bravi dal punto di vista della comunicazione di darmi i temi delle canzoni. Perciò per esempio c'è Simone Cristicchi che mi ha raccontato una storiella e poi io ho scritto la canzone, mi ha detto adesso scrivi una canzone su questa storia e mi ha raccontato la storia e io ho scritto la canzone. E così per ognuno di questi personaggi che sono persone che io consideravo brillanti dal punto di vista della comunicazione. Negli ultimi anni poi mi sono appassionata al ventriloquismo, perciò quando faccio i miei concerti porto con me questi pupazzini. Uno è un coniglietto rosa che si chiama Jessica e l'altro si chiama Cuclamo, appunto è nato grazie a Moni per questo spettacolo. Tu mi chiedevi come si fa ad avere mie notizie, a sapere per esempio quando suono da qualche parte. Io lo dico adesso, basta andare a cercarmi tipo sui vari social network che sono Facebook, Instagram, ma il web in generale, ma io sono anche su TikTok, che è questo nuovo social che è molto in auge fra i bambini e i ragazzi giovani, e con questo pupazzo faccio dei piccoli video. Uno non ho appena finito di girare adesso, e quindi potete trovare le mie notizie su lì, insomma. Diciamo più come cantautrice più su Facebook, Instagram. Poi se vi interessa guardare i pupazzi, mi cercate su TikTok. Un'ultima curiosità, ti muovi tra teatri e locali? Teatri, locali, piazze, dove mi capita veramente? Se appunto poi andate a cercare un po' mie notizie in giro, vedrete che ho suonato per anni nei Fiamma Fumana, con i quali sono state in tournée tantissimo all'estero. Anche con le Mondine, il coro delle Mondine di Novi, perché con i Fiamma Fumana facevamo una world music che prendeva spunto dalla musica ethnic folk dell'Emilia, anche se io sono di Bari, ho imparato a cantare in emiliano, e con le Mondine, proprio le Mondine, quelle vere che raccoglievano il riso, che adesso hanno intorno agli 80 anni, alcune anche di più. Siamo andati in tournée in America, c'è anche un documentario di madre e figlia che spesso mandano, non mi ricordo su quale canale, e perciò ho girato tantissimo, poi anche da sola sono stata in Inghilterra, in Francia, in Belgio, in Grecia. Adesso sono in una fase un po' più stanziale, anche perché sto cercando di scrivere le canzoni nuove. Tra mille progetti che faccio, sono lì che faccio una specie di ricerca, perché vorrei uscire un po' dai miei cliché e fare qualcosa di nuovo. A breve notizie. Bene, e allora magari ci aggiorneremo. Sì. Intanto un saluto e un ringraziamento alla cantante, musicista e autrice Roberta Carrieri. Roberta, un abbraccio, un in bocca al lupo, a presto. Ciao a tutti e a presto. L'attore Lino Guanciale sullo spettacolo Ragazzi di Vita di Pierpaolo Pasolini a Roma, Teatro Argentina, dal 15 al 27 ottobre 2019. Ciao Federico. Ciao, come stai? Bene, tu come stai? Bene, bene. Senti, intanto ti chiederei della scorsa stagione, sempre Ragazzi di Vita. Ragazzi di Vita, la scorsa stagione è stato... Beh sì, ormai si può dire, insomma, uno dei successi teatrali più importanti, non soltanto romani, perché pur essendo andato in replica soltanto qui a Roma al Teatro Argentina, ha raccolto qualcosa come 15.000 spettatori, è stato poi molto premiato, insomma, le maschere d'oro, insomma, ha preso il premio spettacolo dell'anno, la regia di Massimo è stata premiata sia alle maschere che dalla premio della critica che da Giubu. Quindi è uno spettacolo che la scorsa stagione ha raccolto un consenso, una risposta che è andata anche al di là delle aspettative di chi ci lavorava, delle più rose speranze, diciamo, perché si trattava in qualche modo di una scommessa, tra i tanti motivi, perché è uno spettacolo che è tenuto su da un cast tendenzialmente molto giovane, sì. Su cui Massimo ha fatto un fortissimo lavoro, creando di fatto un gruppo estremamente efficace. Ecco, la cosa che conquista in genere chi viene a vedere lo spettacolo è l'onda d'urto energetica, molto young, diciamo, per tutti i presenti. Sì. Riallestendo lo spettacolo, quello che abbiamo notato tutti è che secondo noi lo spettacolo è ulteriormente cresciuto, un po' perché c'è la memoria della grande e bella risposta di pubblico che raccoglie, quindi parte in qualche modo in vantaggio, no? Rendendo lo spettacolo a queste condizioni, e un po' perché partire da questo risultato acquisito dà la tranquillità, se ovviamente questa non si trasforma un po' in autocompiacimento, ecco, ma su questo Massimo ci ha messi bene in guardia tutti, eravamo in fondo tutti quanti pronti ad affrontare questo risultato.

ed è Comizi di amore di Pasolini, e quindi con l'occasione rinnoviamo comunque, che pur destinato al pubblico scolare, pur organizzato appunto con gli istituti di zona, la proiezione è comunque aperta. Proseguiremo con la presentazione di una mostra che avrà l'allestimento nel mezzanino dello spazio Cinema Aquila e che comunque accompagnerà tutto il corso della manifestazione Logos, che è Futuro Anteriore. Futuro Anteriore sarà un appuntamento con una selezione ferocissima, proprio per via della grande produzione, di foto di Paolo D'Amico, quadri di Rocco Palamara e nei manifesti e dell'archivio dei movimenti, per una selezione che è stata fatta a cura di Vincenzo Milici. Perché Futuro Anteriore? Perché le opere che avremo modo di guardare tutti insieme sono sintetizzate aspirazioni, sogni, lotte, sconfitte di una generazione che è quella del 77, viste chiaramente attraverso lo sguardo privilegiato dei protagonisti. Perché il 77? Perché nonostante l'anniversario sia corso 2 anni fa, un anniversario tondo appunto dei 40 anni, comunque continua a rappresentare un ultimo grande scontro frontale con il potere, e quindi da questo punto di vista per noi resta comunque un punto di partenza che in ogni caso continua, come dire, a permetterci di prendere la rincorsa, e in questo senso ci proiettiamo in avanti perché sempre appunto nella giornata di mercoledì avremo la proiezione di un film particolarissimo. La proiezione è di The Island President, è un documentario, ed è un documentario che in un momento in cui ancora non era così diffusa l'attenzione per i cambiamenti climatici globali, per strategie collettive di intervento, racconta la storia di un personaggio piuttosto particolare, il presidente della Repubblica delle Maldive, Mohamed Nasheed, il quale cominciò seriamente a preoccuparsi del fatto che le 1200 isole dell'arcipelago stessero rischiando di finire sott'acqua proprio per via di queste catastrofi climatiche. E noi avremo anche la possibilità di farci salutare dal presidente Nasheed, che sarà in videoconferenza con noi proprio per presentare il film. A questo punto salto, andiamo al 24, torniamo, come dire, nei luoghi di Ex Mia, quindi il centro sociale, il parco delle energie e il lago, e cominciamo con una serie di presenze che insomma abbiamo l'imbarazzo nel mettere in ordine, quindi cercherò di metterle in ordine, come dire, di tipo cronologico. Mattina, lezione di storia, professore dei professori, Alessandro Barbero, docente di storia medievale, grande divulgatore, che terrà una lezione aperta alle nostre classi, ma appunto come sempre anche a chi vorrà intervenire come pubblico. Poi continueremo con delle presentazioni, insomma, come sai Logos si è fatto da sempre promotore dei titoli di case editrici più o meno grandi, ma con comunque grandi cataloghi. Quindi avremo Il Galeone, La Ruota, Lo Russo, Nova Delphi, Momo, Ortica, poi avremo anche delle librerie, quindi dall'Eternauta alla Pecora Elettrica, insomma mi perdonerà chiunque si sentirà dimenticato, ma sono davvero tanti. Proseguendo con gli appuntamenti, quest'anno ci siamo voluti concentrare nel tema futuro su alcune situazioni di tipo geopolitico che sicuramente continuano ad essere osservatori privilegiati di futuro. Con una quasi insomma inquietante capacità prefigurativa abbiamo organizzato degli incontri sulla Catalogna ad esempio, quindi raccontando con protagonisti di cooperative sociali, con ad esempio Stefano Portelli dall'Osservatorio di Antropologia del Conflitto dell'Università di Barcellona, ed altre esperienze di base, cosa sta accadendo, la repressione brutale contro il movimento indipendentista, che non è chiaramente soltanto una rivincita dello Stato spagnolo, ma è una rappresaglia feroce contro delle pratiche politiche dal basso. Continuando su questo indirizzo, avremo a cura di una delle nostre affezionate case editrici, che è la Red Star Press e il Nation Libri, un incontro di presentazione e chiaramente da lì anche una produzione verso chiacchiere di maggiore respiro sul Rojava, quindi il fronte siriano, la rivoluzione confederale e tutto questo a partire dal titolo La guerra che viene e sulla presenza di Davide Grasso e Lele, che sono coordinatori del volume che raccoglie tutta una serie di testimonianze dai combattenti delle brigate internazionali. Poi, passando così da momenti di particolare intensità ad altri non meno intensi, ma sicuramente diciamo più leggeri, ci concediamo le chiacchiere e la musica di Bobo Rondelli in serata a partire dalle 22. Poi, che dire, le giornate di venerdì, sabato e domenica ovviamente continueranno a essere estremamente dense di incontri che comunque in questo anno di futuro e futuri sono stati anche affidati al punto di vista di alcune testate free press che continuano a offrirci delle riflessioni appunto fuori dalle voci roboanti della stampa istituzionale e che quindi probabilmente rispondono più affilati per comprendere il presente e da lì riuscire, come dire, a proiettarsi di fronte a quello che succederà. Quindi abbiamo Napoli Monitor, abbiamo Scomodo, Dinamo Press, continuiamo con la testata Jacobin quest'anno al quarto numero con una deflagrante antologia dal titolo Apocalypse No. Poi, passando su un fronte di altre testualità, Logos è sempre stata particolarmente affezionata al cinema, quindi quest'anno con collaborazioni da festival assolutamente pregiati come La La Land, che ci fornisce uno sguardo sul cinema del Medio Oriente, e con il festival Terre di Confine offriremo ogni serata a partire, e questo insomma lo vedrete bene sul programma, sul nostro sito www.logosfest.org, a partire, dicevo, da un orario variabile dalle 20 alle 21 per poterci meglio incastrare con il resto del calendario, una rassegna appunto di film che avranno chiaramente a che fare con il tema di quest'anno, appunto attraverso il portare in primo piano sguardi giovani, guardare con attenzione alle dinamiche climatiche che ci sono e che verranno. Poi un paio di regali non da poco, uno dagli amici di Sport Popolare che ci, come dire, offriranno, introdurranno la visione di Istanbul United, un documentario molto interessante su come i gruppi ultra abbiano sostenuto e diciamo tenuto la piazza durante gli scontri del 2013 a fronte degli episodi di Gezi Park a Istanbul. E poi insomma una chicca un po' per amatori insonni, il sabato una rassegna di fantascienza tan tutta italiana. L'autore è stato Anthony Dawson, al secolo Antonio Margheriti, un autore italiano di film di genere che tra l'altro abbiamo scoperto andando a vedere L'ultimo di Tarantino essere citato appunto dal maestro Quentin, e considerando che la fabbrica di Logos comincia insomma a riflettere sul programma prima della insomma debita chiusura estiva, ma ci siamo sentiti a questo punto molto vicini a uno spirito come quello irriverente di Tarantino. Poi ovviamente non mancano appuntamenti per bambini, il nostro Capitan Calamaio, avremo dei laboratori scientifici, chiaramente tutto questo negli spazi del lago, e come anche nelle passate edizioni non manca una nutritissima sezione dedicata al fumetto che quest'anno spazia dalla fantascienza di taglio ambientalista con Taxo di Calmero Calderone per le edizioni Lavieri, fino a una diciamo piacevole ripresa grazie al crowdfunding di un titolo che abbiamo amato tutte e tutti, dedicato a Roberto Biagetti, che è l'ultima fermata, quindi sarà presente Repush, chissà che non ci faccia una sorpresa anche Zero Calcare, e soprattutto un testo nuovo, nuovissimo, che avremo il piacere di presentare con l'autore. Roma sarà distrutta in un giorno, l'ultimo fumetto di Roberto Recchioni, che è stato realizzato in collaborazione con il Muro del Canto, una sorta di fumetto catastrofico che parte dalla periferia di Roma, da Ostia, per raccontare la distruzione della città da parte di un kaiju, una sorta di mostro distrugge città proprio tipico della fantascienza giapponese, che pensa un po', visto che la città, come dire, non a caso verrà travolta da mari di fuoco, soprannominato Nerone. Quindi da questo punto di vista si apre comunque una sponda per poter parlare non soltanto di Roma attraverso le sue centralità, come d'altronde accadrà nel resto del calendario del festival, ma di raccontare appunto i nostri luoghi, che non sono i luoghi cartolina, e sono i nostri spazi di periferia, non solo geografica, che non hanno più centralità, in cui la vita per certi versi sembra procedere quasi identica a se stessa, e poi a un certo punto arriva l'apocalisse. Tra l'altro, piccola ma non troppo piccola parentesi, nella presentazione che farà Repush sul fumetto Ultima Fermata avremo la possibilità di chiacchierare anche con Cristian Araimo del suo nuovo titolo Contro l'identità italiana, proprio perché ovviamente ci concederemo uno spazio di riflessione attraverso l'identitarismo, l'estrema destra, il sovranismo, cioè tutto quello contro il quale tutte noi e tutti noi quotidianamente ci misuriamo e lavoriamo e ci battiamo dal basso per arginarlo nei nostri territori. Io ricordo comunque che per tutti gli aggiornamenti del programma dovete assolutamente consultare intanto la pagina Facebook, perché è l'aggiornamento più agile, quindi www.facebook.it/logosfest, o anche il nostro sito www.logosfest.org. Nona edizione di Logos, Festa della Parola, che quest'anno è futuro, a Roma, centro sociale occupato autogestito ex SNIA, dal 23 al 27 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Manuela, una delle curatrici. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Federico, viva il lupo e grazie sempre a te per l'attenzione che dedichi a Logos e a ex SNIA. Un saluto a tutte. L'agenda della settimana teatrale romana, la parola a Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. È una settimana interessante effettivamente, perché qualcosa rimane in scena, come Ragazzi di Vita, come La Gaia Scienza, La Rivolta degli Oggetti, quindi un po' il nuovo e il vecchio, anche se non si tratta di vecchio, ma semplicemente qualcosa di un'epoca precedente che possiamo rivedere oggi con particolare interesse, come La Rivolta degli Oggetti per la Gaia Scienza, e Ragazzi di Vita, che in questi anni sulla scrittura di Pierpaolo Pasolini ha portato sul palco del Teatro Argentina, credo sia la terza stagione ormai, un gruppo di ragazzi che vengono fuori anche dall'Accademia di Roma, che si stanno distinguendo con particolare successo. Questo per quanto riguarda qualcosa che resta dalla settimana scorsa, ma ci sono anche un po' di cose che debuttano questa settimana. Per quanto riguarda il Teatro di Roma, io qualcosa te la continuo a dire, perché in effetti se appunto La Rivolta degli Oggetti e Ragazzi di Vita sono i progetti che restano dalla scorsa settimana, ancora per un po', Ragazzi di Vita chiude questa settimana, mentre fino al 3 novembre c'è La Rivolta degli Oggetti. Attorno a questi spettacoli c'è in realtà un movimento molto interessante, perché sia Pasolini di Ragazzi di Vita, non quello di Ragazzi di Vita perché è un romanzo degli anni 50, ma diciamo il Pasolini più maturo prima dell'omicidio, quindi Pasolini degli anni 60, i primi 70, è un rappresentante della cultura romana più potente, che insomma la cultura dell'avanguardia, che porterà alle avanguardie. Ora, il Teatro di Roma ha preparato degli interventi molto interessanti, tra i quali vado a segnalare soprattutto Rivolte 70. Di che cosa si tratta? Rivolte 70 è un'attività culturale molto ampia, un lavoro attorno alla rivolta degli oggetti che si porta dietro parole e immagini degli anni in cui lo spettacolo è nato, ovvero sia appunto gli anni 70, che ha segnato un po' l'orizzonte culturale di questo paese. E è una mostra di documenti, immagini inedite e materiali d'archivio e mai mostrati prima, eccezionali, riportati alla luce da Graziano Graziani, che un po' insomma fa da trenion fra quello che è stato il movimento avanguardistico dell'epoca, penso soprattutto al 1972 di Simone Carella, e non solo Simone Carella, ma mi piace ricordarlo come fulcro di questo movimento, e tutto ciò che poi sarà l'epoca successiva. Graziano Graziani appunto si è occupato dell'intero Rivolte 70, che sarà fino al 10 novembre attorno allo spettacolo e sarà nei pressi del Teatro India tutti i giorni, ingresso libero fino appunto al 10 novembre con orari insomma dalle 18 alle 23, quindi attorno un po' alla serata teatrale, ma all'interno ci sarà questa mostra sull'immobilismo molisano, che fu uno dei falsi più eclatanti della redazione del Male. Infatti gli autori del Male si occuperanno di riscoprire questa non tanto avanguardia ma la retroguardia, come ci si firmava, che ci si espose nell'ottobre del 78 sulle pagine della celebre rivista. Già all'epoca fu dedicata una mostra a questo immobilismo proprio realizzata nel 1972. Sinopia è in realtà l'affresco del progetto fotografico e l'affresco che Simone Carella stava cercando di realizzare proprio sulle avanguardie artistiche romane. Sarà fino al 3 novembre a cura della figlia Elettra Carella Pignatelli e l'allestimento a cura di Riccardo Pazzi dei Mutei Mago. Insomma, quindi un bel po' di appuntamenti attorno a questa rievocazione degli anni 70 che sarà in scena al Teatro India, che finalmente sta diventando un po' quello per cui era nato, e questo mi fa piacere segnalarlo. È stato, cioè, una serie di appuntamenti legati alle avanguardie, legati alla storia del teatro, ma anche riguardi alla sperimentazione attuale, che potrebbero fare di quel teatro uno dei fulcri nazionali della sperimentazione legata al teatro e all'arte contemporanea. Quindi attenzione a ciò che succede al Teatro India in questo prossimo periodo, ma noi per il resto andiamo avanti, e avanti significa che ci spostiamo un pochino e per cambiare un po' strada andiamo a vedere che cosa succede questa settimana a Trend. Lo facciamo, ecco, credo ce la possiamo fare, sì, ecco, ce la faccio. Questa settimana Trend al Teatro Belli sarà l'occasione per andare ancora un po' oltre all'interno della drammaturgia britannica. Siamo alla 18ª edizione di questo festival curato da Rodolfo Di Gianmarco. 25, 26, 27 di ottobre, questo weekend sarà l'occasione per vedere Love Play di Moira Puffini con gli allievi attori e attrici del primo anno dell'Accademia Silvio D'Amico e la mise en space curata da Massimiliano Farau. Questo fine settimana Love Play si occupa di un testo presentato per la prima volta nella rassegna This Other Eden, a cui parteciparono vari drammaturghi con l'intento di raccontare episodi della storia di Inghilterra. È una struttura un po' particolare, una sorta di giro tondo di Schnitzler che si dipana lungo due millenni di storia di Londra. È questo quello che andremo a vedere, quindi per appassionati del genere, appassionati della storia britannica, questo weekend 25-27 ottobre per Love Play al Teatro Belli per Trend, il Festival della Drammaturgia Britannica. Poi DNA Dramma Verticale, studio numero 3, di e conduca Visconti, 24-27 ottobre, lo spazio 18B. Luca Visconti presenta questo lavoro, uno studio spettacolo legato alle scoperte scientifiche sul DNA mitocondriale. E una piccola indagine sulla memoria trasmessa dalle madri ai figli, alle figlie in particolare. E questo è quello che andremo a vedere allo spazio 18B, 24-27 ottobre. Poi insomma, un'altra cosa che mi fa piacere segnalare è che all'Angelo Mai arriva questo weekend uno spettacolo un po' particolare di Riccardo Moretti, Stefano Cenci e il cantautore Colapesce, stanno tutti male. Spettacolo che mi è capitato anche di vedere a Prato qualche tempo fa, ed è un lavoro che parte dal dolore fisico persistente, permanente, e poi diventa un malessere più generale, un malessere esistenziale, perché appunto pare proprio che le persone stiano tutte quante male. Questo è ciò che andremo a vedere 24, 25 e 26 ottobre per la prima volta a Roma, all'Angelo Mai, alle Terme di Caracalla, e appunto per gli amanti soprattutto del cantautore con la pesce, diciamo un pubblico decisamente molto ampio, non sarebbe male andare a dare un'occhiata, anche perché suona e canta in scena e devo dire che i suoi momenti sono davvero, davvero importanti. Altra cosa che andremo a vedere è al Teatro Studio Chaos, dove il teatro che non c'era, il festival diretto da Stefano Maria Permitessa, continua il suo lavoro 24-27 ottobre, Il Neonato, Refrattario 4.0, la regia appunto di Stefano Maria Permitessa, che dirige spettacoli nel festival che lui stesso dirige, e il testo è appunto di Alida Castagna, ed è un lavoro che ha vinto il premio del pubblico di Casale al Teatro Patologico lo scorso anno. Una madre tenta invano di portare il compimento all'atto del parto, si dilata in un tempo senza fine questo momento, e chissà che cosa succederà. 24-27 ottobre a Teatro Studio Keiros per Il Neonato Refrattario. Sicuramente ti porterei al Teatro Tor Bella Monaca, perché questa settimana ritorna in scena a Roma L'Eternità Dolcissima di Renato Cani, che abbiamo già visto all'Argo qualche settimana fa per la regia di Vinicio Marchioni, e dal 24-26 ottobre se ne torna negli spazi del Teatro Tor Bella Monaca, ed è un po' l'appuntamento del Tor Bella Monaca di questa settimana, fa parte della trilogia dell'essenziale di cui abbiamo già parlato nelle scorse settimane. A proposito di teatri di cintura che proprio in questo periodo hanno visto il ritorno del bando per la prossima programmazione, di presto ne sapremo un po' di più, al Teatro Biblioteca Quarticciolo, tra le varie cose c'è anche il Teatro Ragazzi, la compagnia Teatro Viola presenta Il Sole Suonatore e la Luna Cantante, 28 ottobre, per appunto un appuntamento mattutino con il Teatro Ragazzi. Poi siamo anche al Teatro Eliseo, perché al Piccolo Eliseo del 24-27 ottobre non più sulta questo lavoro con la drammaturgia e la regia di Gianni Spezzano, che insieme ad Adriano Pantaleo del gruppo del Nest Napoli, del Napoli Est Teatro, il Nest, presenta questo lavoro sul cosa vuol dire essere un ultras, che responsabilità questo porta, che legame corra tra lo stato civile e il movimento degli ultras. Qual è il costo di essere un ultras? 24-27 ottobre per riflettere su questa figura al Teatro Piccolo Eliseo. Ci occupiamo sicuramente delle carrozzerie notte, perché 24, 25 e 26 ottobre è l'occasione per l'Edipo di Michele Sinisi, Il Corpo Tragico, una performance per un attore solo, una sorta di esame post-mortem con racconto a ritroso in cui un vecchio Edipo si toglie ogni maschera, ripensa alle sue disgrazie e si interroga sui tanti enigmi del suo mito. Quindi una riflessione su Edipo a partire da Edipo stesso, che Michele Sinisi porta sul palco delle carrozzerie notte. E che altro, Federico, che altro? Sicuramente un po' l'evento della settimana. Gli eventi della settimana stanno quasi tutti al Roma Europa Festival, perché due date ancora, questa sera e domani, per vedere Dante Antonelli, L'atto di adorazione, che ha chiuso la rassegna di Anni Luce, ma è stato prolungato perché aveva tantissime richieste di pubblico, quindi due date speciali questa sera e domani al Teatro 2 del Mattatoio per rivedere L'atto di adorazione di Dante Antonelli, dedicato alla letteratura del grande autore Mishima. C'è qualche altra cosa legata soprattutto alle arti visive, e si tratta di venerdì 25 il lavoro di Yula Varnai, One of the Few Moments 2, un site-specific light installation che il 24 ottobre al 3 novembre sarà nella sala Santa Rita, un'opera di quest'artista ungherese conosciuto per le installazioni su grande scala, su ambienti immersivi, che cerca di attraversare le linee architettoniche romane attraverso la luce. Quindi andremo a vedere anche questo per Roma Festival dal 24 ottobre fino al 3 novembre, ma i due appuntamenti che Roma Roma Festival ci presenta per questa settimana, anzi tre, scusami, appuntamenti che ci presenta questa settimana con particolare forza sono sicuramente il ritorno Roma di Saverio la Ruina, scena verticale con Mario e Salè, in prima assoluta 26 e 27 ottobre, sempre alla Pelanda, Mattatoio, Teatro 1, dopo il terremoto dell'Aquila in una delle tende allo stile del sisma, Mario e Salè, un occidentale cristiano e un arabo musulmano, si ritrovano in relazione per dialogare sulle differenze e le difficoltà a partire da dispute religiose che appunto incontrano nell'ambito della tragedia. Questo è uno dei debutti più importanti della settimana dell'intero Roma Europa Festival, ma non solo, questa è la settimana anche per il lavoro che Roma Europa Festival consegna e presenta al Teatro Biblioteca Quarticciolo con la prima assoluta di 16.9 Home Concert, esercizi sull'abitare, Tamara Bartolini, Michele Baronio, una performance concerto costruita intorno al tema della casa, intesa come luogo di concentrazione simbolica della convivenza umana sul pianeta. Questo è molto importante, in realtà, da partecipare sabato 26, domenica 27, per questo lavoro purtroppo soltanto due giorni, mi dispiace perché meritavo un pochino più di attenzione, sicuramente l'attenzione massima della settimana, due grandi protagonisti del teatro europeo di oggi e della letteratura mondiale. Julien Gosselin, che già gli scorsi anni abbiamo visto all'opera, regista giovanissimo, visto all'opera Roma Europa Festival con le particelle elementari di Michel Houellebecq, presenta Falce e Martello con Don De Lillo, l'opera di Don De Lillo, il racconto Falce e Martello, in cui uno speculatore è rinchiuso all'interno di una prigione per criminali della finanza e insieme a un compagno di cella è costretto a guardare ogni giorno un notiziario di economia per bambini scritto dalla propria ex moglie. Questa è la situazione in cui il grande giovane regista francese Julien Gosselin, 25, 26 e 27 di ottobre, ci accoglie al Roma Europa Festival e precisamente al Mattatoio, quindi negli spazi della Pelanda. E con questo direi che è tutto. Ciao Simone, alla prossima! Ciao a tutti! Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.